La storia e la memoria di Dino Pesole. La Seconda Guerra Mondiale coinvolse, come sappiamo, militari e civili, facendo appello a tutte le risorse umane dei belligeranti, e neppure l'architettura poté sottrarsi a tale mobilitazione. E contrariamente a quanto si afferma oggi, l'architettura conobbe un periodo ricco di ricerche e di trasformazioni. La mostra Architettura in uniforme, progettare e costruire per la Seconda Guerra Mondiale, che si tiene al Maxi di Roma fino al prossimo 3 maggio, illustra come si progettò e si costruì nel corso della Seconda Guerra Mondiale, racconta che cosa è successo all'architettura durante questo periodo ed esplora i diversi modi in cui gli architetti sono stati coinvolti e hanno lavorato in ogni paese. Architettura in uniforme, spiega il curatore Jean-Louis Cohen, supera forse un tabù psicologico parlando di un periodo dell'architettura di cui non si parla mai. Si parla del prima, del dopo, mai del durante. Durante cosa? Durante il secondo conflitto mondiale, appunto, quando ai quattro lati del pianeta divenne fondamentale sperimentare nuovi materiali e tecniche costruttive, inventare forme di mimetizzazione e progettare strutture gigantesche per la produzione e i test bellici. Cohen spiega tutto con una sintesi efficace che peraltro riflette un pensiero diffuso tra gli storici. La Seconda Guerra fu vinta da chi aveva un miglior apparato industriale. Composta da un'ampia sezione internazionale, con scoperte e immagini spettacolari, la mostra si arricchisce di una consistente sezione dedicata all'Italia e all'incessante attività edilizia e urbanistica che già in quegli anni mette le basi per il futuro boom edilizio del dopoguerra. All'interno della mostra è stato inserito un corso di storia moderna e contemporanea articolato in 5 diversi appuntamenti per contribuire alla conoscenza dei fatti, dei luoghi e dei personaggi al centro dei due conflitti mondiali. È la rassegna L'ora di storia, 5 incontri con storici, docenti universitari, giornalisti, psicoanalisti. Si è partiti lo scorso 6 marzo con Paolo Mieli e poi ci saranno i prossimi appuntamenti in programma il 20 marzo, il 3 aprile, il 15 aprile e il 22 aprile. Di tutto questo parliamo con Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxi. Buonasera e ben arrivata. Buonasera, grazie a voi per l'opportunità. Allora, ci racconti un attimo di questa bella mostra, interessante sì. Mostra. Ma dunque, questa è una grande mostra di approfondimento storico legata al filone di ricerca del Maxi in qualità di Museo Nazionale dell'Architettura. È una mostra di architettura, è una mostra che racconta come si è progettato e costruito durante la Seconda Guerra Mondiale, come veniva detto adesso introducendo l'argomento, insomma la guerra mondiale che ha infiammato 4 continenti dal 39 al 45 ha visto la partecipazione attiva, non neutrale, potremmo dire così, degli architetti e che non si sono potuti sottrarre a questa grande vicenda. E questa mostra racconta come gli architetti hanno preso parte ai combattimenti in tanti modi diversi, attraverso la ricerca sul proprio progettuale, attraverso l'evoluzione di conoscenze edilizie importanti per la costruzione dei bunker, dei rifugi antiaerei, dei grandi fronti industriali, addirittura negli anni della Seconda Guerra Mondiale l'inventiva degli architetti si indirizzò verso la prefabbricazione, no? quel modo di costruire modulare, smontabile che poi è proseguita anche dopo. Gli architetti sia degli alleati, sia sul fronte degli alleati che sul fronte dell'asse hanno preso parte attiva alla propaganda dell'epoca, quindi la mostra racconta questo, racconta sì. Le grandi fortificazioni, i grandi giganteschi sistemi di fortificazioni, pensiamo solo alla linea Maginot, il Vallo Atlantico, quelle linee di fortificazioni che erano, sì, che erano così caratteristiche della guerra, il camouflage, ovvero gli architetti che dovevano disegnare l'invisibile, disegnare quelle realtà che dovevano essere protette, diciamo, dalla violenza e dall'aggressione della guerra. Già, fino alle costruzioni quelle più drammatiche. Perché fino ad Auschwitz. Ecco, c'è un passaggio, certo, della mostra, lo diciamo ai nostri ascoltatori, sì, che racconta di come venne progettato e costruito, sì, il campo di sterminio, sì, di Auschwitz-Birkenau, sì, che, sì, insomma, è drammatico. Drammatico. Sì, si racconta naturalmente anche quell'architettura, l'architettura dei campi di concentramento, l'architettura dell'occupazione, l'occupazione dell'Europa da parte dei nazisti, che raggiunse il proprio apice prima della vittoria dell'Armata Rossa a Stalingrado, è accompagnata proprio da una politica architettonica e urbanistica che questa mostra racconta. Questa mostra racconta anche i grandi edifici che furono inseriti nelle reti territoriali estese. Pensate al Pentagono, per esempio. Il Pentagono, sì, nasce nel 53, se adesso non ricordo male, insomma, comunque in quegli anni. Sì, inizio anni 50. Esatto, sì, inizio anni 50. È una mostra, come tutte le mostre che stiamo producendo e ospitando al Maxxi, importante, è una grande coproduzione internazionale, l'avete detto voi, curata da Jean-Louis Cohen, che... Sì. È un grande architetto francese, è un progetto condiviso con appunto la Cité de l'Architecture et du Patrimoine di Parigi e con il Canadian Center for Architecture, insomma è una grande coproduzione internazionale. E come tutti i nostri progetti di ricerca e anche espositivi, è affiancato a una serie di iniziative collaterali, tra cui questa lezione di storia. Ecco, parliamo proprio di questo, sì, abbiamo circa 2 minuti e mezzo per raccontarlo. Rapidissimamente. Beh, è un corso di storia moderna e contemporanea che, come avete detto, si sviluppa in 5 appuntamenti. Abbiamo già avuto il piacere di venerdì scorso di ospitare Paolo Mieli, che ha fatto una bellissima lezione sulla Prima Guerra Mondiale, su come la Prima Guerra Mondiale abbia cambiato proprio la storia del Novecento. Sì. Il prossimo appuntamento è per venerdì 20 marzo con Luigi Zoia e Stefano Carta, che sono 2 psicanalisti, sì, che abbiamo voluto dare anche questo impronta, punto di vista, questa impronta, insieme ad Attilio Giordano, il direttore del Venerdì di Repubblica, ci racconteranno come la paranoia, la follia e la paranoia, che è un disturbo mentale, diciamo, che influenza la storia, però come questa paranoia collettiva può essere all'origine dei conflitti. Poi continueremo con una serie invece di proprio storici, il professor Sabatucci, che ci racconterà la Seconda Guerra Mondiale, che se vogliamo è proprio la guerra a cui fa riferimento questa mostra, è un'occasione quindi per conoscere le vicende del conflitto, le sue ripercussioni nella storia del XXI secolo, e quindi anche la relazione con questa ricerca sulla progettazione e sull'architettura. E poi 2 appuntamenti, uno con Lucio Caracciolo il 15 aprile e uno con il professor Melloni il 22 aprile, sui conflitti contemporanei, appunto, in cui Caracciolo racconterà la geografia e le cause dei conflitti di oggi, e il professor Melloni il 22 aprile, che in cui ci racconterà le guerre di religioni. Devo dire che in questi giorni basta aprire il giornale per capire come, certo, la memoria, infatti, e la storia e la distruzione della memoria, insomma, basti pensare cosa è successo a Nimrud qualche giorno fa, questa grande capitale della civiltà assira, distrutta dalla furia iconoclasta dell'ISIS, sì, come oggi le guerre assumono un'altra forma, e dentro questa forma c'è anche l'idea proprio di colpire la storia culturale, il patrimonio culturale, la storia culturale delle civiltà. Benissimo, allora grazie. Allora un invito a tutti i nostri ascoltatori a visitare il Maxxi, e con questo doppio evento, l'architettura da un lato e la storia dall'altro. Grazie al Presidente Menandri. Grazie.